Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. È come se fossero stati sterminati tutti gli abitanti di un villaggio. Ci sono vecchi e bambini, ci sono donne, ragazzi e uomini di ogni età. È fatto di 900 nomi, l'elenco delle vittime di tutte le mafie in Italia. C'è chi è stato zittito per aver detto no e chi per aver parlato troppo. C'è chi è stato ucciso per il lavoro che faceva e chi perché si trovava al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ci sono magistrati, poliziotti, sacerdoti, politici e gente comune. Oggi, 20 marzo, i loro nomi e le loro storie vengono ricordate nella 15ª giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie, promossa dall'associazione Libera, quest'anno a Milano. All'ombra del Duomo fu uccisa una di queste vittime di mafia, un eroe borghese, Giorgio Ambrosoli, a cui dedichiamo la puntata delle Storiacce. Umberto Ambrosoli, lei ha seguito tutto il dibattito che ha portato all'approvazione dello scudo fiscale? È indubbio che la vicenda in relazione alla quale mio padre ha svolto la sua attività radicasse in un massiccio utilizzo di esportazione illecita di capitale, un'esportazione che oltre a essere illecita per il fatto stesso di essere esportazione, era anche illecita per la provenienza di quei capitali e per il destino di quei capitali. Lo scudo fiscale oggi consente il rientro di capitali usciti anche in tutti questi 30 anni, è considerato prioritario dal nostro Parlamento il rientro di questi capitali piuttosto che un segnale di legalità che sarebbe in principalità la persecuzione dei soggetti che hanno adoperato e adoperano questo strumento per eludere in primis la tassazione nazionale. Questo provvedimento è l'ennesima conferma di come la soglia etica del nostro Paese sia considerata di secondo livello rispetto a tante altre priorità. Aveva 8 anni Umberto quando suo padre Giorgio fu ucciso nel luglio del 1979 a Milano mentre rientrava a casa e quegli spari al commissario liquidatore della banca di Michele Sindona puntavano al cuore dello Stato, come scrive il presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nella prefazione a Qualunque cosa succeda, il libro in cui Umberto Ambrosoli 30 anni dopo parla di suo padre Giorgio. Ricostruisce la vita di quell'eroe borghese, ma anche del paese di allora, per concludere che l'unica vera differenza da quei giorni a oggi sta in una maggiore sfrontatezza. L'Italia è un paese dove l'illegalità è, tra virgolette, la norma e non è una questione sulla quale si possano in realtà dividere più di un tanto gli schieramenti politici. Nella popolazione prevale l'interesse personale rispetto all'interesse collettivo. Quindi forse varrebbe la pena, sempre che si ritenga, come io ritengo, che le regole abbiano un valore, dedicare qualche energia in più a investire sull'educazione al rispetto delle regole. Quelle regole che suo padre ha cercato strenuamente di vedere applicate nel momento in cui si è dovuto occupare della banca privata italiana di Sindona. Quando lei ha messo mano, si è avventurato in questo viaggio negli appunti, nei ricordi, nelle carte di suo padre, ricostruendo quegli intricati anni, qual è stata la prima percezione? In primo luogo la complessità di quegli anni, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista politico. In secondo luogo la semplicità, in una determinata prospettiva, del percorso dell'illegalità, quasi da certi punti di vista l'evidenza. In terzo luogo la forza di questa illegalità rispetto agli altri poteri, rispetto ai poteri dello Stato, per una ragione semplicissima, che era una illegalità che pervadeva i poteri dello Stato. Da questo punto di vista, guardare tutte quelle carte mi ha dato purtroppo la sensazione che non è cambiato moltissimo. Mi ha dato la sensazione che se non fosse per le pubblicità che occupavano le pagine dei giornali proponendo cose che oggi sono abbondantemente nell'uso quotidiano e che invece lì venivano rappresentate come straordinarie novità, se non fosse per quello, purtroppo quello che leggevamo allora lo leggiamo anche adesso. Allora mi chiedo, e la risposta non è negativa, se l'Italia di allora fosse un'Italia che ha trasmesso a quella di oggi degli esempi sui quali investire o meno, e se soprattutto su quegli esempi si sia investito o meno. Quello di mio padre è un esempio positivo di allora, è un esempio che ci racconta come in realtà quella illegalità che lì era diventata sistema con una forza notevole possa essere combattuta da ciascuno di noi, non commettendo imprese eroiche, non adoperandosi per raggiungere un potere, ma semplicemente rimanendo fedeli ai valori nei quali credere, mantenendo il più alto possibile la guardia a tutela della propria libertà, impegnandosi in ciò che si ritiene giusto. A proposito di valori, e tra un attimo vorrò chiederglielo, perché suo padre, come lei racconta, proprio in questo suo incarico a un certo punto credette di veder vacillare una fiducia che per diciamo formazione familiare aveva sempre avuto soprattutto nella istituzione ecclesiastica, e che però invece poi seppe scindere diciamo tra gli uomini e l'istituzione. Ci arrivo tra un attimo, ma con riferimento a quello che lei diceva poc'anzi di quanto anche poco rispetto a questo tipo di eventi sia cambiato rispetto a 30 anni fa. In fondo il fallimento della banca di Sindona, al di là di tutti i retroscena bui che avevano, fu un fallimento che ricadde sui risparmiatori innanzitutto e ricadde su tutto il sistema finanziario italiano. Ne abbiamo visti di altri fallimenti in tempi ben più recenti che hanno avuto lo stesso effetto soprattutto sulle parti più deboli. Sintetizzando al massimo le ragioni che hanno portato all'uccisione di mio padre, lui come commissario liquidatore di una banca privata fallita si stava adoperando e si opponeva con forza a che il costo economico di quel fallimento, determinato da condotte di una serie di privati, ricadesse integralmente sulle casse dello Stato, restituendo agli autori di quella bancarotta una, potremmo dire, verginità tale per la quale avrebbero potuto ripresentarsi sul mercato senza ricostruire, senza restituire alcunché, godendo gli effetti di uno sperpero delle casse pubbliche. Ecco, papà si opponeva a questo, e la cosa incredibile è che invece a quel progetto erano favorevoli i più autorevoli esponenti del governo italiano, che preferivano interloquire con un bancarottiere latitante all'estero, inseguito non solo dal mandato di cattura italiano, ma da un procedimento per bancarotta negli Stati Uniti, per una banca che aveva anche negli Stati Uniti, piuttosto che seguire le indicazioni che provenivano dalla Banca d'Italia e essere, come dire, solidale con il soggetto che quello stesso potere aveva voluto mettere a capo della liquidazione, ovvero mio padre. Lei scrive che per suo padre toccare con mano la disinvoltura con la quale lo IOR, ossia la Banca del Vaticano, ha operato assieme a Sindona, genera in papà, scrive lei, una sorta di imbarazzo, quasi una crisi della dimensione spirituale. Come vi è stato trasmesso questo imbarazzo? Con una semplicità che rappresento con questo episodio, papà ci accompagnava con la mamma tutte le domeniche a messa, e a un certo punto accompagnandoci si fermava sulla porta, diceva fumo una sigaretta, entro, e invece non entrava. Questa è la sua, l'immagine della sua crisi, però come ha detto lei aveva anche la capacità di superare i difetti delle persone rispetto a quelli, alle caratteristiche delle istituzioni, e la stessa cosa poteva fare al contrario, che era riuscito benissimo a enucleare nella sua testa a un certo punto le responsabilità di quelle condotte non ortodosse poste in essere dallo IOR ad un determinato numero di soggetti senza che integralmente la sua fede ne risultasse scossa. Ha letto Vaticano S.P.A.? A tratti. Che cosa ne pensa? E ci sono un paio di documenti nuovi interessanti, devo dire, non tanto per la storia di allora che riguarda mio papà, quanto piuttosto per quello che è stato poi tutto un filone emerso nel corso di Mani Pulite. Quello che io ho cercato di fare col mio libro è stato quello di rappresentare come in realtà ciascuno di noi abbia una responsabilità. Non ci rendiamo conto che invece nel momento stesso in cui, ad esempio, il non pagare le tasse sia un qualche cosa che produce una spirale negativa, perversa, che determina altre illegalità. E il nostro decidere quotidianamente, per alcuni di noi, purtroppo per una grandissima parte di noi, di cercare di eludere le tasse in relazione, che ne so, alla parcella di un professionista alla quale ci rivolgiamo, sia una responsabilità diretta su come va lo Stato, e lo è in due prospettive: da un lato per come vanno le finanze dello Stato, dall'altro per il messaggio che si fa passare, perché vede, oggi come allora, se ci fosse un Giorgio Ambrosoli che dovesse occuparsi della liquidazione di una banca, la stragrande maggioranza delle persone che ricoprono incarichi di responsabilità penserebbero si omologherà anche lui, ovvero privilegerà l'interesse che a un certo punto gli sarà rappresentato. Ecco, papà ha fatto una cosa diversa, ha rappresentato solo ed esclusivamente l'interesse collettivo, a scapito addirittura dell'interesse alla propria esistenza. Quello è un gesto che col senno del poi definiamo eroico, ma non è stato fatto per diventare eroi, è stato fatto per essere se stessi. E se ciascuno di noi riflettesse sul potere che ha nella quotidianità per costruire il paese nel quale vuole vivere, forse avremmo un paese un pochettino più bello e solare. Quasi a dare per scontato che sia impossibile che esistano delle persone che invece non facciano un discorso di interesse personale, come appunto lei diceva. E questa storia ci dice che invece è possibile, che non dobbiamo dare per scontato che quando siamo pessimisti, cinici, rassegnati e pensiamo che comunque il potere logori chiunque, dobbiamo guardare questi esempi e ricordarci che siamo noi che permettiamo che il potere logori ciascuno di noi, e quindi siamo noi che possiamo evitarlo. Storielle. Storiacce. Cara Anna, pagherò a caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Poco prima di essere zittito dai sicari di Sindona e dagli affari sporchi di mafia, Banca del Vaticano e P2, Giorgio Ambrosoli scrisse una lettera alla moglie e allo stesso modo con un messaggio per i suoi tre figli. Il figlio, Umberto, inizia nel suo libro la ricostruzione della vita di suo padre e di quel ruolo da commissario liquidatore della banca privata di Michele Sindona che lo porterà alla morte tra l'11 e il 12 luglio 1979. Un compito che già prima però aveva tolto la serenità nella loro casa milanese. Lei da piccolo, e lo racconta, ha vissuto il clima che anche all'interno della vostra famiglia inevitabilmente si viveva, il momento in cui suo padre cominciò a sentirsi anche progressivamente isolato. Lei stesso fu testimone di minacce che suo padre stava ricevendo. Sì, perché ebbi l'occasione di ascoltare una di queste telefonate che era rivolta a papà e nella quale gli si prospettava il destino che poi effettivamente si è verificato, ovvero quello di essere assassinato. Però in tutti quegli anni devo dire che guardando l'agenda di papà, ricostruendo giorno per giorno, guardando gli atti, i documenti che lui aveva ordinato, costituito, recuperato, ho percepito ulteriormente, in una dimensione ancora più concreta, quello che era un'emozione della mia memoria, ovvero la serenità che, nonostante tutto quello, dall'attività di papà e dalla sua dimensione anche professionale traspariva, in antitesi a quello che col senno del poi si rappresentava come drammatico. Ecco, penso che se papà è riuscito a rimanere sereno nonostante tutto quello che stava succedendo, sia per la consapevolezza che aveva di fare solo ed esclusivamente ciò che riteneva giusto. Lei c'è mai passato davanti alla PR di New York? Sì, ero curioso, sono andato per vedere come era fatto, sono andato per vedere che cosa si guardava da quella strada, per cercare di capire che emozioni avesse provato mio padre quella volta che ci si è che ci è transettato davanti nell'episodio che racconto nel libro. Suo padre passava per le strade di New York, sapeva che lì in quell'albergo era ospitato Michele Sindona, di cui lui praticamente sapeva tutto, anche se non l'aveva mai di fatto incontrato, che era l'uomo che poi ha voluto la sua morte. Ci sono altri personaggi di cui però appunto ogni tanto ciclicamente si ritorna a parlare anche nelle cronache recenti e che hanno avuto ruoli di diverso tipo anche nella vicenda di suo padre. Sono personaggi che hanno ancora un appeal anche mediatico. Secondo lei è giusto oppure no? Guardi, io penso questo. La storia di papà era relativamente nota nel 1979, quando lui è stato assassinato. Le responsabilità del suo omicidio e le ragioni che hanno portato a quell'omicidio sono davanti agli occhi dell'Italia del 1986, con una sentenza che poi da lì a breve è divenuta definitiva. Dal 1986, cioè da quando questa storia ha l'approfondimento massimo che fosse possibile, ho la sensazione che non si siano tratti tutti gli insegnamenti possibili per evitare che situazioni di quel genere si verificassero nuovamente. Non mi riferisco ovviamente solo all'omicidio, ma mi riferisco al substrato che ha determinato quell'omicidio, ovvero ai presupposti della, chiamiamola, indagine che mio padre stava svolgendo. Se nel 1976 la collettività avesse voluto guardare quelle carte e guardare quelle responsabilità al di là e in una dimensione ulteriore rispetto a quelle penali, allora forse fenomeni come Tangentopoli sarebbero emersi con un po' di anticipo, perlomeno con 6 anni d'anticipo, perché quello che è emerso nel 1986 è un sistema che ha delle analogie incredibili con quello che è emerso nel 1992 con Mani Pulite, e che tra le altre cose non si riferiva all'86, ma si riferiva addirittura a un periodo fino al 1974, quindi stiamo parlando proprio di radici profondissime. Ecco, se noi guardassimo tutte le storie, inclusa quella della P2, e cercassimo di imparare da quelle, di costruire un sistema non necessariamente di regole, ma anche di educazione, per fare tesoro di quelle esperienze, allora oggi non ci sarebbe nessun appeal mediatico per tante realtà. Suo padre è stato da subito, dopo la morte, identificato come un eroe positivo dell'Italia, uno dei pochi, incarnato poi nella bellissima definizione dell'eroe borghese. Un eroe che però, come lei stesso ricordava poco fa, mentre era ancora in vita si è visto, ha visto quelli che erano i rappresentanti politici e istituzionali dell'epoca schierarsi più con la parte che lui in quel momento cercava di avversare nel momento in cui si occupava della banca di Sindona. Alcuni dei protagonisti di allora sono ancora, anche se in forme diverse, presenti nella vita politica di oggi. In questi anni, in qualche modo, con voi, con lei, c'è mai stato, non so, una presa di posizione di qualcuno, di politici dell'epoca, da Andreotti in giù? C'è stato un qualche forma di ripensamento, avvicinamento, un segnale che vi sia arrivato? Non nella prospettiva che ha detto lei adesso. Il panorama politico italiano è estremamente variegato. Devo dire che nel 1998 soggetti assolutamente estranei al sistema che ha generato la vicenda nella quale mio padre è morto, rappresentanti però delle istituzioni statali, dal presidente della Camera Violante al ministro della giustizia Flick, hanno voluto rappresentare l'importanza che per le istituzioni statali dovrebbe avere, e per loro aveva, l'esempio di mio papà. Flick, in una cerimonia che si era tenuta a Giffa, il paese nel quale aveva le radici mio padre, sul Lago Maggiore, a un certo punto ha detto una cosa che mi aveva colpito. Ha detto: io chiedo scusa alla famiglia e allo Stato per la disattenzione dello Stato, delle istituzioni dello Stato di tutti questi anni, erano tanti anni dalla morte di mio padre, in relazione all'esempio di Giorgio Ambrosoli. Ecco, mi era piaciuto tantissimo il fatto che non si chiedesse scusa alla famiglia, appunto, ma alla famiglia e alla collettività. Devo dire che da questo punto di vista questo genere di manifestazioni, che poi hanno avuto un seguito anche da parte del presidente Ciampi, sono stati di gran lunga superiori a qualsiasi pensiero negativo che discenda dal, come dire, mancato ravvedimento di altri. Sempre riflettendo però su quella che era la, chiamiamola, solitudine istituzionale di mio padre e dei suoi collaboratori, trovo che ci sia un elemento che va un pochettino valorizzato e che invece talvolta passa in secondo piano. Neanche quella solitudine, che pure era espressa dai massimi esponenti della politica italiana, è stato colto da papà o da chi con lui ha lavorato in quegli anni come un alibi per andarsene, per lasciare polemicamente tutto e per evitare di fare il proprio dovere. E questo è un esempio in più, è un esempio in più che ci dice come non siano solo le minacce o la corruzione, cioè cose che hanno già di per sé una connotazione negativa, gli ostacoli che possono essere posti innanzi al lavoro di chi ha un ruolo di responsabilità, possa essere invece posto un ostacolo in più, che è quello della solitudine, ma neanche questo, come neanche la corruzione, come neanche le minacce, possono essere con certezza degli strumenti per evitare che ciascuno faccia il proprio dovere.